possesso da un sintomo letale. Un gesto che chiamo seduzione, scegliere frasi per delimitare un campo d'azione per chi sa viaggiare con i motori dell'immaginazione. Un gesto che chiamo seduzione, ti conquisterò con abilità, mia creatura incantevole, è che so quello che ti fa sciogliere e perciò ti avrò, oh sì, ti avrò. Giusti aggettivi emozionati per dare corpo ai pensieri più vivaci e farli risplendere come il sole. Un gesto che chiamo seduzione, scegliere certi colori meno audaci per dare vita ai sogni spudorati di chi cova rossissima passione. Un gesto che chiamo seduzione, ti conquisterò con abilità, mia creatura incantevole, perché so